Pagliori accecanti di luce, riflessi negli occhi tra i fumi, figure d'ombra scura, tratti somatici astratti, sento che sei qui. Sensi è uno stato mentale dove non capisci se stai bene o male. Non ti credo più quando dicevi che gli amori passano se conti fino a tre. Falla adesso mai, conta insieme a me.